Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Confine di e con Michele Santeramo e Michele Sinisi. Quella sta a 100 metri dal campo degli italiani, quelli che ricostruiscono binari. Sta di casa nella stazione ferroviaria bombardata, coi tubi dell'acqua che vengono fuori dal pavimento e calcinacci. A destra, entrando, un buco nella parete coperto da un pezzo di plastica. Quella, la signora, lava la roba dei soldati. Mutande, magliette, calzini, canotte, li stende in un ordine suo, rientra la roba già pronta, la distribuisce ai soldati che pagano e si mette a guardare i binari. Si siede sui binari e se li guarda, mentre quelli vanno ad incrociarsi all'infinito. L'infinito non sa proprio immaginarselo. Si è pure sforzato una sera, ma niente, buio. Ci pensava e ripensava, ma non le veniva nessuna immagine. Buio completo, silenzio. Ecco l'infinito, buio e niente. E non parla, nessuna lingua, niente di niente, è muta. Si dice al campo, beh, se ti sparano una serie di volte in testa accanto puoi diventarlo, muta, sorda, qualcosa lo diventi, non eri niente e diventi qualcosa. A lei gliel'avano tirate addosso, erano supposizioni perché quell'amica parlava, ma si era trovata sotto le bombe. I capelli non glieli aveva mai visti nessuno, sotto un foulard rosso stavano, una gonna nera lunga, una maglia e uno scialle. Un mercoledì mattina si mette a lavare i panni, sta là, lava i panni, suda e non succede altro se non questo, a vederla non ci si fa caso, è una che lava della roba e niente, invece di essere muta, canticchia, stonata, però canticchia. La canzone racconta di un uomo che è stato chiamato a combattere, della sua donna che a casa lo aspetta e non succede niente dalla canzone, solo che lei continua ad aspettare fino a quando lui non torna, è tutto qua. Smette di lavare intorno alle 13 e rientra la roba già pronta, si mette nella sala d'attesa, prende una maglietta per volta e le piega, tutte. Finito il suo lavoro aspetta che arrivino i soldati a prendersi la roba e pagare, quelli arrivano alle 7, le distribuisce, prende i soldi e si va a mettere sui binari. Chissà com'è st'infinito, si chiede, ma niente. Poi si alza, va in biglietteria e prepara la cena per sé e per i suoi 3 figli maschi. Il più grande era scappato prima che bombardassero il paese, dal suo viaggio se n'è tornato con un vecchio che adesso sta là e non fa niente. Aveva dormito in un ospedale il figlio, è entrato ed erano le 10 di sera, fuori inverno e vento. Si è svegliato col sole, è sceso per i 2 piani, persone appoggiate con la spalla al muro in un ospedale, con le divise ancora addosso, i berretti un po' storti, ma tutto sommato in ordine. Il fucile a qualche centimetro di distanza. Morti. Più là il vecchio con la barba, stava in un angolo, era vivo e stava zitto. Si sono guardati e non hanno detto niente. Continuavano a guardarsi, il vecchio da sopra la barba, lui da sotto al cappello di lana. Mia figlia nessuno l'ha violentata. Bene. Ne sono certo. Te l'ha detto lei? No, ma c'ero io quando l'hanno ammazzata. Te l'hanno ammazzata davanti agli occhi? Puoi giurarci. In giro dicono che l'hanno violentata. Non è vero? Certo, non l'hanno violentata, lo saprai. C'eri tu quando l'hanno ammazzata. Già, c'ero io. E se l'era portato a casa? Il vecchio si mette sui binari. Non gli vale meno tanto che lei levi i panni ai soldati, ma qualche soldo bisogna pure guadagnarlo. Lei voleva andare in Italia, magari aprire, che ne so, una lavanderia. Aveva anche trovato un nome, ma non se lo ricordava più. L'Italia la conoscevano perché arrivava dalla televisione, e l'italiano anche, l'avevano imparato dalla televisione, per questo piuttosto che gridare aiuto, preferivano sussurrare un aiutino. Erano diventati una famiglia proprio nel momento degli addii. Non erano mai stati una famiglia, ma ce l'avevano messa tutta e lo erano diventati. Arriva un momento in cui i figli diventano grandi, e quando alzano per un attimo la testa e sanno di avere un'idea propria di quello che vedono, e quando diventano grandi, partono. Per l'Italia, su un gommone. Il primo a partire è il figlio maggiore. Raccoglie la sua roba, paga 1.000 euro e si mette in viaggio dalla stazione al mare. In viaggio. Ma io non sarò sveglio a mezzanotte. Apre l'anta dall'armadio di legno verde. Non trova il caffè e capisce che gli andrà male per tutta la giornata. Purcaccio l'udomonia. Mannaggia chi te muti sta a muti. Ma potessi me che sono sveglio la mattina in androvo caffè. No, non è possibile, non è possibile proprio. Mi metto il cappello, i pantaloni, la maglia, saluto mia madre, mi metto il giubbotto e dico, ma ci vediamo fra un mesetto, ma me ne vado a piedi, vado verso il porto. Sotto il cappello di lana, se te lo tiri giù, non ti riconosce nessuno. E io me lo tiro giù. Svolto, risvolto, eccolo il porto. C'è vento, ma non marciapiedi non ce ne stanno. Gradini e sei sulla Maria Prima, a motore. Una barca, ma anche una moglie, un amore per chi non ha ancora trovato fortuna, voglio dire. Fuori dal porto c'è pure chi si addormenta, io no, io col cappello di lana tirato fin sopra la coppa, no? Sono seduto a guardarmi il mare, davanti. Mi figuro pesci enormi, che ne peschi uno e puoi tornare già a casa. Mi figuro naufragi, mi figuro uomini che cadono in mare e io che mi tuffo e ne salvo uno, due, tutti. Perché uno me l'ha sfuggito e non lo vedevo. Ma non vai tangur ma usendo. Non ce la farà, il mare è troppo grosso. Grido lo vedo, dietro a quell'onda. Ma vicino con un salvagente rosso legato con una cima alla barca. Che il mare, quando è così grosso, è proprio anche io lascia l'onda. Adesso l'ho preso. Lui ha bevuto un po', ma non riesce a afferrarsi al salvagente. Grido di tirare. Tirarci su in due e affare per stanotte. Lascia un'altra cima, quella mi ci aggrappo io. Lascia il salvagente lui e lo tirano su. Me ne sto aggrappato alla cima, le onde mi sbattono in bacio alla barca. Con le gambe invece attutisco, i corpi aspetta che vengano a tirare su anche me. Eccomi sulla barca. Mi ringrazio, bravo, grazie, compa, grazie, bravo, bravo, grazie, bravo, grazie. Ho fatto io, ho fatto solo il mio dovere. Il mare si calma, io e lui, davanti alla barca. E io che lo guardo come adesso, proprio in mone, che siamo appena partiti e ho già salvato 3 persone. Il vento è forte e freddo, è sul pezzo piccolo di faccia che gli è rimasto scoperto, arrivo a farlo diventare tutto rosso. Sveglia alle 5, caffè, tirare su le reti, contare la pesca a strascico della notte. Qua funziona come, no? Che noi si lanciano le reti nel mare e poi dopo qualche ora le tiriamo su di nuovo, ecco. Quelle scorrono giù sul fondale e prendono di tutto. Le tiriamo su e guardiamo quel che abbiamo pescato. E alcune cose chiaramente le ributtiamo in mare, altre le teniamo e quelle sono la nostra pesca. Non è che ci sono ami o vermi o cavallette da mettere alla pondre con chi causa e poi ingaggiare una lotta, una battaglia con il pesce che si dibatte con l'amo conficcato nella mandibola, ecco. No, non c'è niente di tutto questo. Ci stanno delle reti che si trascinano e quel che viene su, cioè, non è che si pescano solo pesci vivi e saltellanti, no? Arriva di tutto quando tiri su le reti, no? E capita anche molte volte che si tirano su bombe inesplose, pezzi d'aereo, carlinghe con il numero di serie, roba che ributtiamo in mare, perché vai a dimostrare che l'hai trovata, mannaggia lo murtro demonio, dimostra che nonostante fossi esattamente dove nessun aereo è mai caduto, dove nessuna nave è mai affondata, un pezzo di mare che non conosci sciagure, un pezzo di mare dove mai niente è successo, solo pesci e pescato, pesci e pescato, pesci e pescato, pesci io che ne tramando un bacio, come lo fai? Vai a spiegare che com'è, che nei posti di mare dove mai te l'aspetti, tiri sulla rete e ci trovi un corpo blu di una persona con addosso ancora tutti i vestiti, venire su proprio in mezzo ai pesci. Tiriamo ste reti, vieni su sta cosa gonfia e dici, c'è cazzo le pesci acqui su. Lo rigiri con un arpione e vedi che non ha neppure una squama. Gli sono andate via le labbra, 2 strisce di pelle chiuse, i denti sporgenti a ridono, dalla bocca acqua, non si fermava e il corpo si sgonfiava. La pelle è venuta via e i capelli, mannaggia, a me capita di vedere i capelli bagnati, attaccati alla testa, no? Così come capita, lisci. I capelli di uno quando è andato a fare il bagno ad agosto. Mi vengono in mente cose vive e stavano attaccate alla fronte della testa ed erano l'unica cosa viva di quel corpo blu. Un corpo giovane, di un agnano, senza più le unghie da nessuna parte. E i pantaloni che continuavano a cacciare fuori acqua. E niente occhi, non aveva più gli occhi perché le palpebre si erano sgonfiate anche quelle. Senza l'acqua nel cranio si erano sgonfiate. E i capelli, mannaggia lo murtro, non ho capito. Ci troviamo con sto corpo morto e gonfio in mezzo al mare, ciò da fe. Ogni tanto dai un'occhiata alle bocche degli altri per vedere se dicono qualcosa, ma crona duce. Se già per una carlinga non ti credono se gli dici che l'hai trovata in mare, figurati cosa ti combinano se ti scoprono con un corpo di un uomo tutto blu e abbattuto, gonfio. Non c'è niente da fare. Si sta là seduti e non succede niente. Ci sta il vento che fa sbattere un secchio rosso. Ci sta un legno, altre cazzate. Poi si è fatto quello che si doveva fare, si è ributtato tutto in acqua e la giornata è finita senza pesche. Arriva un momento che si è smesso di lavorare e si comincia a bere. Far baldoria per quello che si può fare su una barca in mezzo al mare. C'è allegria quando hai finito di lavorare e te la godi. Dialetto, no? Barzellit, gente che fuma sigarette, che tira fuori le cartine, altri seduti da qualche parte, fuori se state, no? Dentro se no. E non succede niente. Si sta là, seduti, e non succede niente. Se aspettiamo. E quella sera, niente risate. Si era bevuto più del solito. C'era una sensazione. Ecco, quella sensazione è come andare a far baldore in un cimitero. Uno non ci va a ridere là, no? Non so perché, ma in un cimitero non vai ad ubriacarti a ridere. Si navigava su un cimitero senza far rumore. Era rispetto quello. In mare hai solo una maniera di capire che sei vivo. Farti sentire. Gridare. Fare un gran casino. Coprirlo il rumore del mare. E quella sera niente. Silenzio. Era rispetto quello. Corrono lungo i binari. A un metro di distanza l'uno dall'altro, parallele, due recinzioni che delimitano un territorio già bonificato da tutto il resto che non lo sa se ci trovi mine o fosse comuni. I ragazzi che ci vivono intorno al campo dei soldati italiani che ricostruiscono il binario ogni tanto vanno a trovare i lavoranti e lo fanno camminando fuori dalla recinzione, tanto da mettere ogni giorno un piede a 10 cm a 3 metri o sopra una fossa comune o una mina, qualcosa. Tra questi, il secondo genito della lavandaia, che d'essere un ragazzo, già se ne parlava da un pezzo, che gli erano venuti in testa dei capelli biondi, che già tutto il fisico da qualche tempo gli faceva sentire da ragazza in maniera diversa, prima come compagne di giochi, adesso già come prede, qualcuna più di altre, da difendere e conquistare, come si fa con i territori, con le scarpe, no? Le cose alle quali non si vuole rinunciare. E i ragazzi che passano fuori dalla recinzione, i più fortunati, che nella vita hanno sentito soltanto l'odore di una fossa comune, non il rumore di una mina esplosa sotto un piede, i ragazzi fanno domande e chiedono com'è l'Italia, se ci si può andare, chiedono di sapere come sono i paesi, la gente, roba così. E questi sono soldati fatti in una maniera tutta loro, e i ragazzi va a finire che qualcuno ci si affeziona anche, o finisce che i soldati cominciano a dare risposte vere e a raccontare in quelle risposte la loro nostalgia, la loro voglia di tornare. E quando un militare racconta, allora quel che esiste nel suo paese diventa bello perché è distante. Anche le facce delle persone che non ha mai sopportato diventano un ricordo piacevole, un luogo nel quale tornare, abitudini proprie, senza divisa, senza ordini da rispettare. E questi racconti sognanti di luoghi che nella realtà neppure esistono, ma che stanno nelle teste di chi a casa ci vuole tornare, quei paesaggi irreali, nel racconto diventano verità per chi ascolta, per chi prende per vere le strade senza sporcizia, e le ragazze che di sera passeggiano sole, altre che passeggiano accompagnate, i negozi di alimentari, le macellerie, la vita normale, in un paese normale. Casa mia è un posto dove la gente mi aspetta. Io sto qua, ma quelli nel frattempo mi aspettano. Io la mattina mi sveglio, vado a prendere il caffè al bar, leggo il giornale e poi mi siedo un po' a fare due chiacchiere con gli amici, vado a lavorare in caserma e ci rimango fino al pomeriggio. A pranzo c'è la mensa, poi torno a casa, il paese quando ci arrivo è già illuminato con lampioni gialli, se è inverno. Ma non fa mai tanto freddo, anche se è inverno, non fa freddo. Me ne vado a casa, mi lavo, mi vesto ed esco a fare un giro con la macchina. E tutta questa normalità nella testa di quei ragazzi che ascoltano diventa il sogno di una vita. Loro non lo sanno che ci vogliono contratti di soggiorno, mica lo sanno che le dita con le quali accarezzerebbero curve acerbe di ragazza servono per le impronte digitali. Loro vogliono svegliarsi, andare a prendere un caffè, poi andare al lavoro, tornare e trovare il paese illuminato coi fari gialli dei lampioni. È un racconto dopo l'altro. È una mina scansata oggi, una domani. Prima o poi, nella testa di questi ragazzi, succede qualcosa che non riescono neppure a spiegare. Sanno solo che devono tornare a casa e, pranzando nella sala d'attesa, dirla, prima o poi, dirla e basta. Arriva una stagione in cui il sole si mette a tramontare proprio dove si incrociano i binari, che all'infinito. Quello è il tempo migliore per il vecchio, che si siede e se la guarda tutta la curva del sole. Quando il sole ha finito il suo lavoro, allora ha finito anche il vecchio. Lei ha preparato la cena, tutti vanno nella sala d'attesa e la mangiano. Non si parla spesso, e quando lo si fa l'argomento è sempre quel primo figlio partito che ancora non ha mandato neppure una cartolina. Di stagioni come quella ne passa una, due, quelle sufficienti a far scattare nella testa del secondo genito il meccanismo esatto, a far ritrovare le parole giuste tra una cucchiaiata e la successiva, quelle bastanti per dire parto. Vado in Italia anch'io. È così che quello si mette in viaggio, arriva al mare, se ne va. Beh, dai, come fammi candidare, ma la festa puttanata lo fammi candidare, che spumba da fare candidare, è una bella canzone, veramente, io volevo fare candidare, fammi candidare, mi piace, da fammi candidare. No, oh, cioè, si murti, fammi candidare, no, fammi candidare. No, dai, fammi candidare, e ciò è fatto, io l'ho fatto, è semplice, è la cosa più facile del mondo, né? Uno ne sale, io lo accompagno alla stazione e quelli mi pagano. 5 euro, 100 euro, saranno, cioè, 10 chilometri, non c'è da aver paura, sale veloce e si fa la stazione. Quando a volte è uscita la stazione, cioè, non sai come è la stazione, è, che se, è come se trovi della gente per strada, il film, e ti fermi, per dargli un passaggio, l'autostop, ti pensi all'autostop, ci metti un disht grusso, un policione, la vizius, e già non si cerpi, l'autostop, il reato, eh? E che volevo dire, ma veniamo alla para, il reato già non esiste più. Non farti prendere dal panico. No, io mica mi faccio prendere dal panico. Quelli si devono spogliare sulla spiaggia. Ah, si devono spogliare. Si devono spogliare, perché se se ne vanno in giro con quella roba bagnata di mare puzzolente, ci mettono un secondo ad accorgersi che sono clandestini. Si devono cambiare. E tu controlla che nascondono i vestiti sporchi sotto le pietre. Nessuno deve accorgersi che su quella spiaggia sbarchiamo, eh? Sono 15 viaggi che abbiamo fatto. Per te il primo, non fare cazzate. Loro, ho capito, no? È così. Loro si spogliano. Io li faccio salire in macchina e correre sulla stazione. E corro un cazzo, non corri, perché se corri e incroci una macchina dei carabinieri, quelli in un secondo ti stanno appiccicati al culo. Non corro. No. Allora, li carico e me ne vado come fosse niente per strada. Sarà notte. Devi fare come se stai tornando a casa. Ah, come se non fosse niente, come tutto a posto. Tutto a posto. Sai che faccio? Cosa fa uno quando sei tranquillo e non da nascondere? Fischietta. Fischietta. Ti presenti quando sei tranquillo, dici, madonna, ma c'è bella cena, sono proprio contento oggi, sono Fortnite, no? E quindi si mette a fresche, cioè, quando fa, cioè, cosa fa uno quando sei tranquillo? Fischietta, tanto che se stai un posto di blocchi, non vai a fresche, plamano sotto fuori, ma qui tutto a posto, non è una garba, dove vengo la parrocchia, quindi fischietto, ma mia madre mi ha fatto il panino, non lo dovevo dire però che non torno stanotte, quella mamma ha fatto il panino, però sta più tranquilla. Meno male che ci ha creduto. Tu immagina se gli dicevo, ma stanotte vado a prendere i clandestini e li porto alla stazione. Clandestini? Clandestini. E che roba è? Persone che partono, arrivano, può partire, siamo in viaggio, stanno albanesi. Gli albanesi. E tu come li conosci? E mica li conosco, ma è che mi pagano per fare questo viaggio. E quanto ti danno? 100 euro. Non dire niente a tuo padre. Ecco, l'ultimo puttino, ma 30 anni, diploma, laureato, veramente? Ma veramente sono laureato. Laureato a far l'autista clandestini. Ma io, tu... Vabbè, la verità, io... Nando sto microfono, lo dico, io volevo fare il cantante. Sì, io volevo fare il cantante, perché io sono sempre saputo, quali sono le mie capacità, i miei talenti. Io l'ho sempre saputo, io volevo fare un cantante. Io ho sempre cantato nella stanza, sì, chiuso la porta, cantavo sempre a casa. E fatto per una cassetta bellissima, una volta una cassetta, ma un MP3. E volevo portarlo alla buona anima del Pippo Baud, qualcuno che adesso Carlo Conti, ecco, no, il migliore della nostra vita mi mette a cantare, volevo fare il cantante, e fammi fare il cantante, volevo fare il cantante, volevo fare il cantante, volevo fare il cantante, ecco, volevo fare il cantante, un pezzo solo. Non te posso fare. No, uno veloce. Non butemi cantare. Un pezzo solo, uno solo, fammi cantare. Non butemi cantare. Se canto, lo spacciamo. E canta. A posto, lo speciale, e io canto. No. Pezzo fa così, no? Di fronte a questo mare mi trovo ad aspettare sotto questo cielo nero, accompagno lo straniero. Di fronte a questo mare mi trovo ad aspettare sotto questo cielo nero, accompagno lo straniero. Vabbè, poi venendo c'è che un cantante aveva fatto l'autista clandestino, diplomato, giovane, comunque che chiamano, un cantante aveva fermato. Noi morto, ma speriamo che non mi ha sentito nessuno. Voglio, che cazzo di notte però voglio fare. Caldo e attruvind, caldo e vento, come un coglione stasera non mi sono portato nemmeno il vino. Sai adesso un bello Sursenmirna, un vino fresco, bello, bianco. Quello sai come traci in due stomaco, vai bene, vai in due stomaco, l'inganno, proprio vai in due stomaco, madonna, ma ti senti bella, bella, proprio bella, caldo, caldo. Fermente comincia a salire, bella, sai. Beh, ci stanno i pescatori stanotte. Passa un'ora e poi dei rumori giù nella spiaggia. Altra gente che prima era rimasta nascosta, adesso mi guarda come per dire wow, chi ghiano si riesce i casi in casi fatti. Questi giù nella spiaggia si tolgono i vestiti e li mettono sotto le pietre. Io non so che fare, a quel punto vedo gli altri che lo fanno e scendo anch'io. Silenzio, che nessuno se ne accorga. Quelli stanno giù e hanno nella faccia uno sguardo che non ha niente a che fare con la paura. Io non so chi devo accompagnare e l'unica maniera per saperlo è che gli altri abbiano caricato i propri. A stare sulla spiaggia senza sapere che fare me la godo tutta quanta la scena. Ci stanno gli scafisti che appena l'ultimo dei passeggeri è sceso, prendono canne da pesca, mettono in moto e si allontanano. Ci stanno questi che si spogliano, ci stanno questi nelle macchine che vogliono far presto e ci sto io che mi guardo intorno e non so che fare. Mi metto la mano tra i capelli e non so che fare. E mi siedo pure, non so che fare. Ne rimane uno, è il mio. Mi avvicino e dico, ehi ti, pimpamà, vieni, seguimi. Mi metto a camminare verso la macchina, piano, lentamente. Salgo in macchina e l'altro, quello, lo faccio salire dietro, come in un taxi normale. Metto in moto e faccio retromarcia. Mi volto e me lo guardo negli occhi, quello che sta seduto dietro. E sa solo che, non, che voleva essere proprio lì, in quel momento, io. Cioè proprio io, più che altro, il geometra. Volevo guardare negli occhi e sentire quei respiri affannati e smettere la retromarcia, voltarmi ancora, metterla prima e ripartire a fari spenti fino alla strada, lì riaccendere i fari, guardare per bene che non arrivi nessuna macchina e ripartire prima, seconda, sul sud, proprio lentamente, terza, sul sud. Le marce è meglio non tirarle, con calma, piano, lentamente, sud, sud, e ogni volta, ogni tanto, uno sguardo nello specchietto per vedere la faccia di quello che adesso è agli occhi, la paura ce l'ha di nuovo. Abbasso il finestrino e là c'è il vento caldo della notte che mi arriva sulla faccia e a quel punto decido che è arrivato il momento. Ogni tanto si incrociano delle villette e gente che mangia, perché fece caldo e sta fuori, passeggia a sdraio, no? Che sta là e basta, più che altro. È una notte senza luce e l'asfalto è liscia. Si deve passare dentro al paese per arrivare alla stazione. Si potrebbe pure non farlo, ma a me va di farlo. Voglio sfidare ancora poi il rischio e stare a vedere che cosa succede. Svolta a destra, a sinistra, in fondo, tac, ne voglio, mannaggia, la morte, la macchina dei carabinieri. Io mi fermo, rimango là perché non so che fare. I fari pure della macchina puntano sulla volante che sta a 100 metri. L'altro della macchina, quello che sta dietro, comincia a vramei, a gridare in tutte le lingue che conosce, dici sin, scappa sin. Ci so io, mi scappa di andare, signor, ci so io e i carabinieri che hanno trovato un bacio, come lo fesse. A quel punto quelli si mettono in macchina e partono via veloci, io retromarcia, via, la velocità più alta possibile, la più alta, fidare la notte con quello che grida, io che mi metta avrà a me io la volante dietro che si avvicina e io svolto e guadagno qualche metro, ma quelli sui rettilinei si avvicinano perché in realtà hanno una macchina più veloce, guidano anche meglio, ma io a quel punto comincio e quelli continuano presto a bruciare addosso, a poche centinaia di metri c'è il paese che è alle spalle, io comincio con le strade provinciali tra un paese e l'altro, dritte, che ogni tanto però quelle hanno svolte brusche e asfaltate senza nemmeno un buco e quelle sono strade che tu o le conosci o sei costretto ad andare piano. In ospedale ci sta mia madre che mi dice quello che è successo e spiega. Ma io voglio sapere che fine ha fatto quell'altro che sta seduto dietro, lo chiedo a mia madre e lei dice che è stato sfortunato, che un pezzo di guardrail è entrato nella macchina, ha rotto il parabrezza ed è entrato nella macchina, ed è finito nel mezzo del petto di quel ragazzo che stava seduto dietro. E lui è stato sfortunato. Ma non c'è niente da preoccuparsi, è morto, ma ne muoiono tanti. Dice di non pensarci, mi tira sulle coperte, mi sorride e chiede: ma l'hai mangiato il panino? Prima della guerra le era capitato alla signora, ma tanto tempo prima ormai, di entrarci in quella stazione ferroviaria. Aveva visto un treno partire ed era andata via con quello, come capita a tutti prima o poi, andare in una stazione e non partire, però immaginarselo quel viaggio. Le facce da incontrare, gli odori dei paesi nuovi che tu ci passi in mezzo, hai un minuto o due per capire come fa la gente a sopravvivere là, per giudicare dalle poche strade che vedi, dagli unici odori di cucina che arrivano, dai 3-4 bambini che vedi per strada, dalla quantità di passeggeri che scendono e salgono. Ma adesso erano lavandaia. C'era uno strano modo laggiù. La gente è abituata ad avere delle regole da rispettare o da eludere. E quando manca una qualsiasi legge, perché la polizia è scomparsa, perché i legislatori sono fuggiti col malloppo, perché i dirigenti se la sono data a gambe prima che cominciasse la disfatta, allora c'è qualcuno che stabilisce regole nuove e tutti gli altri, voi per paura, voi per debolezza, le accettano, senza troppo fiatare. Qui c'è un tizio, un ex poliziotto che è uscito vivo dai combattimenti e che non è mai partito, è lui che concede e revoca le licenze, è lui che decide chi può fare che cosa. Anche quando lei, la signora, aveva cominciato a fare la lavandaia per non avere troppi problemi, era andata da lui a chiedere il permesso e lui lo aveva concesso. Ha lui un metro di giustizia che nessuno può discutere. Sa da chi poter prendere dei soldi e da chi invece soldi niente, solo qualche piccolo favore. Il vecchio vedeva sto tizio arrivare ogni 2-3 settimane e all'inizio non si chiedeva proprio niente, con la testa tutta occupata dalla storia di sua figlia, non si chiedeva proprio niente. Stava solo attento all'abbigliamento di questo signore. Una divisa militare ben aderente, 4 medaglie senza nessun valore, magari trovate addosso a qualche morto per strada, prese e appiccicate al petto. Pian piano però, col tempo, anche la faccenda di sua figlia al vecchio cominciò a tormentarlo meno e finì che quella brutta storia gli lasciò libero un pezzo di testa. Si incuriosì il vecchio a questo signore, perché un signore lo sembrava davvero, e volle sapere ma esattamente cosa ci andasse a fare nella stazione ferroviaria bombardata a scadenze più o meno regolari. Un venerdì mattina il signore passa attraverso il campo sterrato davanti alla stazione, fa un cenno con un braccio alla signora, lei capisce e lo segue nella sala d'attesa. Il vecchio si avvicina, cerca un buco nella porta che gli permetta di vedere senza essere visto e rimane ad aspettare. E non deve aspettare tanto, perché quello che succede tra i due è una consuetudine, non ha bisogno di tempo né di parole da metterci in mezzo. Lui si siede su una sedia accanto a un tavolo, lei gli si inginocchia davanti tra le gambe, gli sbottona i pantaloni, gli abbassa le mutande, si alza un po' sulle sue di ginocchia e lui le tiene la testa tra le mani, gliela tiene stretta, in maniera da farle capire esattamente cosa vuole che faccia. Minuti. Poi lui le stringe la testa più forte, le impedisce di allontanarsi. Lui slancia indietro la sua di testa e poi comincia ad accarezzarle i capelli. Di lì a poco la lascia andare, lei lo riabbottona e poi corre via, verso la prima fontana. Correndo, passa dalla porta dietro la quale si è nascosto il vecchio. Solo allora si accorge che lui ha visto tutto. Si guardano e non viene fuori nessuna parola, niente di niente. È il vecchio ad abbassare la testa. E lei corre via, verso la fontana. Il terzogenito aveva 11 anni quando lei decise di partire. Le mancava il coraggio di guardare negli occhi il vecchio, temeva che un giorno lui avrebbe potuto lasciarsi sfuggire qualcosa col bambino, aveva 2 figli che erano già partiti e di cui non sapeva niente, beh, decise che questi erano buoni, ottimi motivi per partire. Si era messa sui binari e non faceva altro che pensare e ripensare a cosa diavolo potesse esserci alla fine di quei 2 pezzi di ferro che si incrociano all'infinito, ma niente. Partì senza salutare nessuno. A suo figlio l'idea di andar via, di raggiungere i suoi 2 fratelli, piacque in fretta e non ci fu bisogno di convincerlo. Per questo, a chi li avesse visti camminare, sarebbe sembrato che lui, il piccolo, portasse lei per mano via da quella storia, fino al mare, in viaggio. Dalle cabine dei camion quasi tutti scendono di spalle, sono alte quelle cose là e bisogna quindi scendere tenendosi con le mani a qualche cosa, specie se non si è altissimi, no? Peggio se anche grassi. D'estate la prima cosa, se rimani sotto una cabina e guardi uno che scende, sono i pantaloni bagnati sul culo, una macchia di sudore che fa diventare il colore dei pantaloni di 2 gradazioni più scuro, primo gradino, secondo, terzo a volte, e poi metti i piedi per terra. Con la mano si arriva a toccare la parte inferiore della cabina no? Della porta della cabina. Spingendo la si chiude. Una volta a terra, per prima cosa ci si tira sui pantaloni, si sbuffa e ci si gratta sulla pelata, in mezzo ai capelli, se si hanno i capelli. Vabbè, io niente capelli, ad esempio, quindi mi gratto la pelata e provo una certa sensazione piacevole, sì, mi piace, è bello, no? Al benzinaio un cenno basta per far capire, no? Il pieno. Ce ne vuole per fare il pieno ad un camion che si porta dietro un container e a quel punto io mi vado a fare un giro intorno. Entro nel ristorante albergo, prendo un caffè, leggo un giornale sportivo, incontro qualcuno che conosco e mi fermo a fare due chiacchiere. Si parla sempre di quanto si starà via di casa, di dove stai andando, quando tornerai a casa, che giro hai fatto e che prima di tornare a casa devi sempre avvisare tua moglie che stai tornando, chissà poi dopo torni a casa e la trovi con qualcuno. Se si è meridionali si tirano fuori sempre le fotografie dei figli dal portafogli. Eh beh, io sono meridionale, quindi eccoli qua, né? Giuseppe e Antonio, pelati non ancora, ma promettenti, le gioie di babbo. 11 anni Giuseppe e 9 anni Antonio. Tutte e due non vedono l'ora di poter guidare il camion di babbo e di notte se lo sognano e prima di addormentarsi se lo raccontano. Stanno là nei letti uno accanto all'altro e sottovoce si raccontano le loro avventure di camionisti, si figurano le ragazze con le quali si sposeranno, i viaggi da fare in tutto il mondo, di smettere poi di guadagnare tanti soldi, non di smettere di guadagnare tanti soldi, di guadagnare di sicuro tanti soldi che poi così potranno comprarsi una bella casa in campagna e a quel punto smettere cosa? Smettere di fare quel lavoro infame che è proprio un camionista, gente che conosce la strada, che ha racconti di cose viste, no? E ha racconti di cose raccontate e prese per vere. Ad esempio, chi dice di aver percorso 4 km in retromarcia con un tir, chi di aver scopato 16 puttane in un solo giorno, chi di aver guidato senza sosta per 2 settimane di fila, un altro per 3 settimane, perché c'è sempre uno che ha un'avventura migliore della tua. Puoi raccontare di essere stato in coma per 26 anni, ma ancora custa da now, io per 26, per 30 anni, ecco. Tra i camionisti basta un niente per superarsi, ma lui, cioè io, la persona di cui parliamo, io sono di quelli che ascolta. Me, io voglio un bagaglio, per Giuseppe e Antonio. Loro staranno là, seduti, e io a quel punto comincerò. Una volta Giuseppe andò, ho scopato 16 puttane in un giorno. Giuseppe andò, una volta Papa Vust, no? Io ho fatto 4 km in retromarcia con un tir. Giuseppe andò, una volta papà vostro ha guidato senza sosta per 3 mesi di seguito. Giuseppe andò, una volta ho aperto le porte del container e ci ho trovato dentro 2 persone. E ho peccato. E i peccati si confessano. E chi si confessano? Si confessano ai preti. Appena tornato a casa vado dal prete che mi ha sposato e gli dico così, nella maniera più compita possibile, gli dico: padre, vorrei confessarmi. Il prete che mi ha sposato vede me, mi vede entrare, vede cioè, sto tizio pelato e grasso entrare in chiesa dopo tant'anni, 20 anni, lo riconosce, mi riconosce e dice: madonna, non mai un peccato è grave a sé. Mi vede camminare per la navata centrale e i miei passi sono proprio silenziosi, timorosi, proprio un piede davanti all'altro, appoggiato per terra senza far troppo rumore, un po' per vergogna, un po' per rispetto. Mi vede entrare così, in maniera compita, e padre, mi vorrei confessare. E per prima cosa gli verrebbe da dire: col cazzo, adesso vieni qua perché vuoi liberarti la coscienza da chissà quale terribile peccato e ti aspetti che ti ascolti. E invece dice: vieni con me. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora? Padre, io faccio il camionista e tu lo sai, lontano da casa per troppo tempo, io non cerco scuse, è che ho tradito mia moglie. Quante volte? Beh, vabbè, non è che uno morconde. 30. E poi? Ho bestemmiato. Va bene, hai bestemmiato, hai disobbedito a qualcuno, magari hai rubato e desiderato la donna ad altri. Ma perché sei venuto qua? Perché voglio confessarmi. E che cosa vuoi confessare? Che hai fatto? Padre, ma tu ci sei mai salito su un camion? La strada vista dall'alto ha altri disegni, le strisce bianche le vedi per bene, non devi sbagliare. Il tir col suo container sopra occupa tutta la carreggiata. Non ci devono essere distrazioni, soprattutto quando qualcuno ti sorpassa. Niente sbandamenti, niente vibrazioni, niente di niente. Non devi sbagliare. E poi ponti. Padre, fino a quando sei in autostrada, allora tutto a posto, quelli sono tutti uguali e tu da sotto ci passi senza problemi. Ma non si va solo in autostrada e quando da lontano vedi un ponte, allora devi cominciare a contare i centimetri. Ce la faccio, non ce la faccio, ce la faccio, non ce la faccio, ce la faccio. Voglio dire, guidare un tir con un container sopra, padre, non è roba da poco e tu non devi sbagliare. E le discese? Il peso di dietro è enorme, allora in discesa quello ti spinge giù e allora ridotte prima, seconda, terza, quarta, ridotte e freno motore, perché in qualche maniera devi evitare che il container e il suo carico ti schiaccino contro il primo ostacolo e tu non devi sbagliare, no, non devi sbagliare, un camion è abituato, e col suo camionista chiaramente, non è che una sia un camion, col camionista il camion è abituato a non sbagliare, un camionista vivo, padre, non ha mai sbagliato. Un camionista che gli capita di sbagliare, di accorgersi, cioè, di averlo fatto, quella è una sensazione nuova. Padre, capro una volta nella prove chip perché stiamo lupit. E a quel punto io vengo qua, vengo a confessare, padre. Mai stato su un camion? Se guida un camion allora ti prende come... non lo so, vabbè, comunque. Vado per questa autostrada a 14, portavo mobili da cucina, un carico diretto in Germania, no? Vedo vibrare qualcosa che portavo nel container che portavo dietro, prima volta, seconda volta, terza volta, a quel punto, allora scendo e vado a controllare, prendo una spranga di ferro perché non si sa mai cosa trovi in un container, un animale ingabbiato per sbaglio, un anzac, un leone, una tigre, qualche caso, sai che era fastidioso proprio, no? Allora apro e la prima cosa che è una puzza, non fidi, insopportabile, padre, una puzza, un tanfo di animale morto. Voglio cani per strada, ne avrò ammazzati a decine e so qual è il loro odore. Quello là, tant'è che penso, vuoi vedere il cane alla suite, un cane da niente? Entro e vado a cercare il cane. Che cane era? Non era un cane. E cos'era? Due persone. E le persone puzzano a quel modo? Quelli, padre, ci stavano da due giorni là dentro, parlo con decenza, da due giorni facevano i loro bisogni, insomma, tutto là dentro, erano madre e figlio, se ne hanno tolti i pantaloni e la gonna, e li facevano là dentro, per non allagare tutto, li facevano nei pantaloni, non avevano addosso i pantaloni e facevano tutto là dentro, per prima cosa gli faccio vedere che sono armato, che... Ma avevano una faccia magra che si vedeva, nessuna forza per colpirmi, si mettono a piangere, mi offrono dei soldi, io lascio perdere, scendo col punto, richiudo il portellone del container con loro due dentro e salgo nella cabina, dico polizia, mo chiamo la polizia, chiedo scusa padre, insomma, se volevo dire se la sbrighino loro, no? Poi non lo so, ci ho pensato padre, che si deve fare con il pellegrino? L'affamato, l'assetato, quella roba là. Beh, accogliere il pellegrino, sfamarlo, dissetarlo, credo. Credo, padre, ce l'ha ancora tutti, diceva, Crait, io e Crait. E io quello ho voluto fare, dico, mo non la chiamo la polizia, né? Vedo di aiutarli io. Questo volevo fare, lo giuro, aiutarli, solo aiutarli. Apro il portellone, salgo con sulla bocca, no? Un fazzoletto e dico, ehi, ma voi dove dovete andare? Questi mi rispondono Italia Nord. E mi sventolano sotto il naso un sacco di soldi, mi dicono di prenderli e accompagnarli in Italia del Nord, e questi soldi sotto il naso, 500 euro, padre, 500 euro, si capisce, sì? Sì. Allora ho pensato, io comunque li devo aiutare, se loro vogliono sdebitarsi e pagarmi, che male c'è? Ho preso i soldi a quel punto e dico, però voglio, se ci ferma la polizia, voi dovete dire che io non ne sapevo niente, che noi non ci siamo mai visti, altrimenti do succede un casino. Mi chiedono se posso accompagnarli, più che altro comprarli, prima di accompagnarli qualcosa da mangiare, perché sono tre giorni che mangiano la loro... Insomma, e bevono la... Erano tre giorni che... Allora dico, vabbè, dai, alla prossima stazione di servizio, scendo e chiudo. Mi trovo tutti i soldi in mano, quasi 500 euro. E io volevo aiutarli, mi sarei fermato alla stazione successiva di servizio, no? Per comprare della roba, parecchia con i loro soldi. E dov'è il peccato? Padre, mi rimetto in viaggio. Dopo 4-5 chilometri nemmeno l'avessi chiamati, mannaggia, hanno molto la polizia. Ma no, questi infermo ne vogliono aprire il container. Gli dico che quello non c'è bisogno. Quelli mobili sono, niente. Non ci credono, a quel punto aprono e anche loro una puzza insopportabile. Uno di loro dice, ehi, i mobili da cucina che fanno? Puzzano così, mo. L'altro dice che no e salgono. Ne trovano uno, il figlio, lo prendono per i capelli, quello comincia a frame, a grade, lo tirano fuori, lo spingono e dicono che io ero complice, che ne sapevo qualcosa. Allora, che cazzo, io ne saccio, io, brigate, non sapevo niente. E quel ragazzino, madonna, 11 anni avrei avuto, si mette a gridare pure lui, dice, è stato lui a costringermi, si è preso pure i soldi, guardate nelle tasche e troverete 500 euro miei. Mi portano in caserma, padre. A quello lo interrogavano per farsi idea dove veniva, chi l'aveva portato in Italia. Io non lo potevo dire, non lo potevo dire che nel container ce ne stava un'altra. Non lo potevo dire, perché altrimenti si sarebbe capito che io ne sapevo qualcosa. Ma non lo volevo, padre. Non lo volevo nemmeno dire. Era per colpa sua che io stavo in caserma. È una rivincita, padre, proprio come me la dovevo prendere. E me la sono presa. Quelli mi stavano interrogando, mi dicevano, trattenevano, insistevano a farmi domande, non mi lasciavano andare. Ma poi io, una rivincita a quel punto, padre, me l'aveva bigliè, ma la dovevo prendere e me la sono presa. Mi hanno detto che potevo andarmene. Io a quel punto mi sono rimesso sul camion e sono andato. Ogni tanto sentivo rumori di quella che gridava, sbatteva i pugni contro le pareti del container, ma io una rivincita me la dovevo prendere, padre. Che hai fatto? Io non ho fatto niente, padre. Ho dimenticato che dietro stava nascosto qualcuno. L'ho dimenticato. Ad un certo punto i rumori sono finiti. Non si sentiva più niente. Era sabato quando mi avevano fermato. Io la domenica ho parcheggiato il camion e basta. Non potevo circolare col camion in autostrada, era domenica. L'ho lasciato là e me ne sono dimenticato. Poi lunedì ho ripreso il viaggio e i rumori non ne venivano più. Il martedì hanno aperto il portellone alla dogana e l'hanno trovata morta. Io non lo sapevo che quella stava là dentro. L'avevo dimenticato, padre. Non ne sapevo niente. Questo ho detto. È morta per asfissia, padre. Aveva le mani screpolate come quelle di una lavandaia, padre. Così è morta. Asfissia. È come se ti seppelliscono vivo, padre. È come una morte così. A qualcuno io glielo dovevo dire, padre. A qualcuno lo dovevo dire. Tu hai il segreto da rispettare, padre. Non la dirai a nessuno questa storia. Hai il segreto, padre. Il vecchio a stare fermo sui binari gli vengono dei dolori al fondo schiena. È per questo che decide di partire anche lui, per i dolori. Non prendere a cercare quegli altri che sono partiti chissà perché non scrivono, non chiamano, non mandano dei soldi. Per i dolori al culo, per quelli parte. È nel destino dei binari di rimanere soli. Ci passa sopra gente, ci si siede, si fanno dei giochi stupidi da ragazzi. Poi ad un certo momento esatto il binario rimane solo. Non ci passa più nessuno, niente di niente. Se ti fermi su dei binari che sono rimasti soli, spezzati, attratti, arrugginiti dovunque, allora trovi la guerra, la fame, l'obbligo di restare. Vedi quali sono le cose che fermano tutto per così tanto tempo da lasciare soli dei binari. Il vecchio parte e quelli continuano in una maniera qualunque a tentare di incrociarsi all'infinito, che poi questo infinito chissà come diavolo è, si chiede il vecchio partendo, ma niente. Questo parte su un gommone e mica lo sa che parte dallo stesso porto dal quale sono partiti tutti gli altri. Di notte il viaggio non è comodo se dividi uno spazio piccolo con altre 12 persone. Su un gommone, se non ci sei abituato, devi aggrapparti a qualcosa, perché il gommone mica ci passa sopra le onde per niente. Il gommone le affronta, ci guerreggia, battaglia con l'onda e la supera. E poi passi sul mare, e il mare è tutto uguale. Tu mica puoi saperlo qual è il punto esatto, forse è proprio questo, appena superato, nel quale se ci scavi sotto, se si potesse scavare, nell'acqua, nel quale se ci scavi sotto ci trovi il corpo morto di una persona, tutto blu e gonfio, lo stesso corpo che hai visto in ospedale tanto tempo fa, che ti ha portato via da quella morte, forse ci sei passato sopra proprio adesso e non lo sai e continui il viaggio. E ti torna in mente la risposta del funzionario al quale hai chiesto un contratto di soggiorno, lui ti ha guardato, ha sorriso e ha detto quanti anni hai? Tu hai risposto 67 e quello ti ha detto ma 67 anni chi ti prende? E tu sei andato via e hai deciso che devi viaggiare senza farlo sapere. Tutto questo ti torna in mente proprio quando ti stanno spiegando che sulla spiaggia dovrai toglierti i vestiti bagnati di mare puzzolenti e metterti quelli puliti, che ci sarà qualcuno ad aspettarti per portarti da un'altra parte e ti dicono di fare in fretta e tu lo fai, scendi dal gommone, vai a nuoto alla spiaggia, trovi un ragazzino, un geometra, e tu non lo sai che quello è un geometra e non sai nemmeno che quello ha accompagnato il secondo figlio partito e ci passi su quella strada dove quel ragazzo ci ha lasciato la pelle, ma adesso il geometra è sveglio e tu non lo sai che ti infileranno in un container che è diretto a Roma, un container che dentro si porta l'odore di panni appena lavati, delle mani callose, umide e callose d'una lavandaia che sarà fermata con te sui binari a sperare che prima o poi quelli si incrociassero in qualche maniera. A Roma tu scendi e la prima notte non sai che fare, sai solo che devi nasconderti e ti fermi sotto un ponte alle 7 di sera e proprio non lo sai che sopra quel ponte alle 9 esatte ci passeranno i Savoia di ritorno in parata dal loro esilio. Alle 7 c'è un traffico di macchine che fanno rumori sordi se l'ascolti sotto l'asfalto. Il vecchio si mette in un angolo sotto il ponte e di fronte si ritrova il Tevere e mica lo sa che ogni tanto di là qualcuno ci passa. Infatti eccoli un uomo e un bambino piccolo che se ne vanno guardandosi il fiume, ma sono due che ti guardano soltanto, due che ti farebbero l'elemosina se solo gliela chiedessi. Il vecchio non è abituato, li guarda passare senza muovere nemmeno un muscolo, senza neppure spaventarsi o recitare una preghiera. Il vecchio s'aspetta che arrivando la sera il traffico sul ponte aumenti e che i rumori delle macchine sordi diventino sempre più insistenti, fino a confondersi tutti in un solo rumore sordo continuo, ma niente di tutto questo accade. I rumori delle macchine si diradano al suono di un fischietto, qualcuno che dirige il traffico e lo sposta, e poi proprio quando rumori di auto niente più, e anche di fischietto uno ogni tanto, ecco un rumore più sottile, come di passi, ecco passi, con scarpe di suolo o con i tacchi, e un'altra cosa che si sente è il vociare di gente, sempre più vociare, sempre più gente, fino a quando arrivano le 9:10 e il vociare è fortissimo, i tacchi si rincorrono, le donne strillano eccoli là e gli uomini prendono sulle spalle i figli. Alle 9:10 s'affaccia giù dal ponte uno vestito tutto di bianco in perlustrazione, un vigile urbano che vede il vecchio e gli chiede documenti. Il vecchio non ha documenti, solo un pezzo di carta che l'ha ricevuta fasulla dal suo viaggio in mare, e allora il vigile gli mette le manette, chiama un altro collega e prima che scocchino le 9 comincia a camminare sul lungo Tevere per raggiungere l'altro ponte, salirlo e andar via. E così fanno, si incamminano, e mentre lo fanno arriva un suono come di una banda e si alza un boato più forte dietro le spalle dei tre, e loro si voltano e vedono la carovana di macchine dalle quali spuntano in piedi con le mani salutanti agitate nella festa di Roma gli eredi dei Savoia, i reali, quelli veri, col permesso di soggiorno e tutto in regola. E i tre rimangono così voltati ad aspettare che il suono della banda s'affievolisca, che passi l'ultima macchina trionfante nella sera di Roma, che l'ultimo fazzoletto smetta di sventolare, che la gente torni a casa, che si incammini. E a volerlo uno se ne immagina pure i passi delle donne coi tacchi e degli uomini coi bambini in braccio che arrivano a casa facendo rumore. I tre risalgono dal ponte, si mettono in una macchina, vanno in caserma e là impronte digitali. E il vecchio a spiegare che ce ne sono voluti tre di morti perché lui riuscisse ad arrivarci in Italia. E il vecchio che racconta di quella volta che aspettava di morire in ospedale, di sua figlia che nessuno l'ha violentata. Il vecchio spiega che a 67 anni il contratto di soggiorno come fa ad ottenerlo. Il vecchio alla fine si rassegna e il giorno dopo lo mettono su un aereo con un foglio in mano firmato dal prefetto in persona che si è voluto scomodare. Solo allora capisce che è tutto inutile, che i tre morti erano inutili, che partire è inutile e che anche tornare adesso su quei binari è inutile. Beh, se è vero che per arrivarci ho rischiato di morire, almeno per tornare a casa mi pagano il biglietto aereo, pensava il vecchio, salendo la scaletta, scortato da guardie con le facce adatte all'occasione, sopracciglia folte, sguardo rabbuiato, arma tra le mani, mascherina per proteggersi da innominabili virus. Ad aspettarlo all'aeroporto in patria ci stanno guardie con altre facce, come di gente che capisce che ci hai provato, almeno ci hai provato, e ti rispetta per questo, ti rispetta. Deve camminare un po' il vecchio per raggiungere la sua stazione ferroviaria, perché è lì che decide di tornare. Potrebbe fermarsi in un posto qualunque, aspettare dovunque di morire di fame o di sete o di vecchiaia, ma vuole andare a farlo laggiù, senza un motivo particolare. Forse solo per vedere se sti binari, alla fine, si incrociano in qualche maniera. C'è solo una cosa che non aveva ancora visto, un solo risultato di quella guerra che sembrava adesso essere sospesa. Un piccolo dettaglio che scopre adesso, passeggiando con addosso tutti i suoi 67 anni, con le mani dietro la schiena e la tosse, che prima non l'aveva, ma adesso eccola qua. Un dettaglio. La gente, almeno la metà delle persone che incrocia passeggiando, la gente indossa magliette bucate, camicie bucate, giubbotti bucati, pantaloni bucati, fori piccoli, un po' bruciacchiati intorno. Lui prima non ci arriva, ma piano piano, alla velocità che i suoi 67 anni gli consentono, capisce. Sono magliette, camicie, pantaloni, giubbotti tolti ai morti. Quei buchi sono fuori d'arma da fuoco, la gente è stata ammazzata dentro quelle magliette e questi, i sopravvissuti, trovando un cadavere sul ciglio di una strada o che ne so davanti al proprio carro, si fermano, gli tolgono di dosso le magliette che quello indossava, le lavano e le usano ancora. Si portano addosso i segni esatti dei combattimenti, i segni precisi, indelebili, di dove si è entrata la morte o di dove si è uscita la vita, questo non riesce a deciderlo, ma intanto cammina e smette anche di pensare a queste faccende che lo innervosiscono e decide che è il caso di concentrarsi sulla stazione ferroviaria, di capire se varrà la pena mettersi lui a lavare le magliette ai soldati, adesso che d'essere rimasto solo è certo, perché una volta può capitare che un ragazzo ti strappi alla morte, ma che capiti due volte, questa è roba da storielle, non da vita vera, pensa il vecchio mentre cammina e non sa cosa lo aspetta. Arriva alla stazione ferroviaria e la trova che i soldati sono andati via, il campo è vuoto adesso. Beh, si saranno spostati più avanti per continuare il lavoro di ricostruzione. In ogni caso là i soldati non ci stanno più e chiedersi dove siano andati è un esercizio inutile, oltre che complicato. Si guarda un po' intorno e decide che non gli rimane altro da fare se non sedersi sui binari e continuare a fare quello che stava già facendo in quell'ospedale ormai qualche anno prima. Stare seduto, in un angolo dove nessuno lo veda. Pensare a sua figlia che nessuno l'ha violentata. E aspettare. Ma adesso che finalmente ha fatto il silenzio nella sua testa di vecchio, adesso che i pensieri non lo disturbano più, sente un rumore che sembra vicino arrivare da qualche parte, un rumore come di ferro su ferro. Sente che qualcuno da qualche parte ancora si affanna per fare qualcosa, ma poi il rumore finisce anche quello, e dai binari a qualche decina di metri vede una sagoma venirgli incontro, una sagoma che si avvicina e scopre sempre più qualcosa, qualche piccolo dettaglio dei suoi lineamenti. La luce che dalle spalle gli casca sulle braccia, poi sul petto, poi sul viso, e là riconosce in quella sagoma il terzogenito scampato al massacro e rispedito in patria anche lui. E non si dicono niente, almeno non subito. Il vecchio gli fa spazio sui binari e lui si siede. Poggia un martello accanto a sé, sbuffa, si rilassa, rimane zitto accanto al vecchio. Non si dicono niente, si guardano. Il vecchio da sopra la barba, lui da sotto al cappello di lana. Lo sai perché mia madre poteva fare la lavandaia? Sì. Nessuno laverà più panni qua. Domani vado a cercarlo, quello. Cosa ti hanno raccontato? Quando veniva quel tizio, si chiudevano in sala d'attesa. Lui la costringeva. Non è vero. È vero, me l'hanno detto i soldati. Non è vero, io una volta ho spiato. E che hai visto? Lui le prendeva dei soldi. Tutto qua. Sei sicuro? Sicuro. C'eri tu quando succedeva? Già, c'ero io. Lo spettacolo Confine di e con Michele Santeramo e Michele Sinisi. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Davide Enia, autore e attore dello spettacolo Autoritratto, in scena a Roma, Teatro India, dal 20 maggio al 1 giugno 2025, ben trovato. Ciao a tutte e tutti. Cos'è questo lavoro? Autoritratto è uno spettacolo in cui per la prima volta affronto il tema del rapporto che un intero ambito culturale, che è il mio, diciamo, di Palermo, abbiamo avuto con Cosa Nostra. Ed è un rapporto di nevrosi in cui abbiamo rimosso, sottostimato, sminuito o mitizzato la mafia, tutto pur di non affrontarlo per quello che era, perché avrebbe rappresentato uno specchio dentro il quale avremmo rivisto le dinamiche di familismo amorale che appartengono a ognuno di noi. Come nasce questo spettacolo? Nasce grazie al filtro del tempo, cioè sono passati così tanti anni che io sono riuscito a calibrare l'entità delle ferite, dei traumi che come essere umano e come parte di una generazione avevo dentro di me. Io vedo il primo morto ammazzato negli anni 80, faccio la maturità nel 92, esattamente tra la bomba del 23 maggio della strage di Capaci, in cui perde la vita Gianni Falcone, e la bomba del 19 luglio, che è la strage di Via D'Amelio, in cui perdono la vita Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. Quindi il vivere in una città che è stata una città di guerra ha segnato tutti quanti noi e ha segnato la condizione del nostro sguardo nei confronti delle cose. Basti considerare che le uniche città del blocco occidentale che hanno avuto una guerra vera e propria dopo il 45 sono state Belfast, Sarajevo e Palermo.

Lo spettacolo autoritratto in scena a Roma al Teatro India dal 20 maggio all'1 giugno 2025. Un saluto e un ringraziamento all'autore e attore Davide Nia. Ci vediamo a teatro. Grazie a tutte e a tutti. Ci vediamo in teatro per chi vuole venire. Con Valerio, uno dei curatori della terza edizione de La Resistente, Festival della Memoria e della Liberazione a Roma, Museo Storico della Liberazione di Via Tasso, dal 5 al 7 giugno 2025. Ben trovato! Buongiorno a tutti e a tutte, ben trovati a voi. Spieghiamo cos'è. Di Via Tasso, la terza edizione, organizza questo piccolo festival che prova a raccontare come iniziative sia di approfondimento, di dibattito, ma anche lo spettacolo per strada, quello che il museo fa tutto il giorno, durante tutto l'anno, quindi ricerca, accoglienza, visite guidate del museo stesso, collaborazioni con realtà culturali, istituzionali, di ricerca. E per questo motivo, appunto, in questa occasione c'è un programma che avrà una serie di appuntamenti pomeridiani di dibattito e una serie di appuntamenti serali, diciamo, al tramonto, che abbiamo chiamato uno spettacolo al tramonto di tipo teatrale, in cui ovviamente si riporteranno delle voci, delle storie, delle riflessioni sulla resistenza, sulla resistenza durante l'occupazione di Roma, ma non solo. Quest'anno è una ricorrenza importante proprio perché ricorrono i 70 anni della fondazione del museo e inoltre c'è una dedica speciale a Iole Mancini, che è appunto la partigiana che è venuta a mancare pochi mesi fa. E purtroppo una parte della sua vita è legata proprio al Museo di Via Tasso, ma soprattutto da quando è stato fondato è rimasta comunque un'amica del museo, supportandolo, diffondendo le storie, venendo spesso e volentieri a portare la sua testimonianza. Come si articolerà l'edizione di quest'anno? Quest'anno saranno 3 giorni, il 5, 6 e 7. Il 5 è dedicato il pomeriggio a un incontro sul maggiore Antonio Airoldi, che è un maggiore dell'esercito italiano, che attraverso la sua vita nell'esercito della resistenza e purtroppo terminata le fosse ardesine, racconteremo anche in controluce quella che è la vicenda coloniale italiana, che inizia ben prima dell'avvento del fascismo, la disfatta delle politiche coloniali, la disfatta del fascismo e l'entrata in guerra e la costituzione della resistenza. La sera sarà dedicato a un reading con Tamara Bartolini e Michele Parogno, che si intitola Come fratelli e sorelle, con una serie di estratti dai romanzi dedicati sia a Giorgio Manicola che a Isabella Manicola. Il 6, che è il venerdì, sarà una giornata dedicata invece alle donne della resistenza, a cui appunto è dedicato l'appuntamento del pomeriggio, sempre alle 5 e mezza, con Alessandra Gisti, Luciana Luceromoli, Chiara Ingrao e Alessandra Powell, in cui appunto proveremo a raccontare non solo ovviamente quella che è l'esperienza e la storia delle donne della resistenza romana, ma anche dare voce a chi dal basso, magari in maniera non armata, ha contribuito a proprio a far in modo che la resistenza romana fosse quella spina del fianco che lo stesso Gambler durante il processo riportò. La sera c'è un estratto dallo spettacolo Tante facce della memoria, che è uno spettacolo dedicato appunto proprio alle donne della resistenza, con Bianca Natti, con la musicazione di Carlo Genovesi e Alessio Toro, scusate. L'ultima giornata è quella di sabato, il 7 giugno. Nel pomeriggio ci sarà sempre un approfondimento, in questo caso c'è una presentazione di un libro che è sui fratelli, c'è cioè La storia e la memoria, è un libro che è uscito da poco proprio sulla figura dei 7 fratelli Cervi di Toni Rovatti, Alessandro Santana e Giorgio Vecchio, e ne parleremo proprio con due degli autori insieme al professor Alessio Gagliardi. La sera concludiamo la 3 giorni sempre alle 7:30 con gli spettacoli al tramonto, con uno spettacolo che si chiama Facoltà di Resistenza, con Archivio Z, che è una compagnia bolognese che fa un lavoro

racconta l'esperienza di autodifesa organizzata e militante del primo femminismo, quello dei primi anni del Novecento, ma ci sono anche saggi che parlano dell'autodifesa femminista marziale negli anni 70 e 80 del Novecento, ma ci sono appunto anche riflessioni che guardano di più agli immaginari, penso al saggio di Leila Spignese dedicato a Niki de Senfel e alla sua performance I Tiri, in cui sparava contro il padre abusante e contro il patriarcato, fino ad arrivare a riflessioni più di storia del diritto che ragionano intorno all'istituto proprio della legittima difesa e di come questo sia stato scarsamente applicato alle donne che hanno ucciso o tentato di uccidere gli uomini maltrattanti e violenti, e quindi donne che nel corso della storia sono state condannate senza alcuna diminuzione di pena né culturale né penale per essersi sottratte con la violenza alla violenza. Che tipo di continuità storica avete trovato in questi diversi capitoli? Abbiamo trovato una continuità soprattutto nella dimensione collettiva dell'autodifesa. Ci sembra da questa, che però è una prima ricognizione, altre cose credo che debbano essere sviluppate e approfondite, ci sembra che l'autodifesa ha maggiore efficacia e funziona meglio laddove si costruisce come esperienza collettiva, quindi di supporto, di accoglienza e di appunto anche rafforzamento l'una con l'altra, non necessariamente politica. Però certamente se è collettiva ci sembra che funzioni meglio. Poi forse abbiamo incontrato anche discontinuità, perché penso al fatto che anche a seconda di come sono cambiati i sistemi normativi o gli immaginari, anche il modo in cui l'autodifesa è potuta essere nominata nel corso del tempo è cambiato, quindi in età moderna certo non se ne poteva neanche immaginare l'esistenza e quindi le donne la agivano molto sotterraneamente, molto clandestinamente, e in età contemporanea ha iniziato a essere rivendicata anche politicamente. Ci sono dei modelli praticabili anche oggi? Assolutamente sì, direi anzi che questo volume si configura come un piccolo manuale di pratiche da imitare o quantomeno da prendere ad esempio. Ritorno sulla questione che la rete è fondamentale, è una prima importante forma di autodifesa delle donne, muoversi insieme, guardarsi l'una con l'altra e sostenersi è fondamentale, e poi la storia ci insegna che ci sono tante modalità in cui le donne si sono difese e possono difendersi dalla violenza, modalità che vanno dalla fuga, dalla sottrazione, ma anche alla reazione fisica vera e propria, che non è inimmaginabile e non è impossibile. Che tipo di fruizione avete pensato per questo lavoro? Noi ci auguriamo molto ampio, non è un lavoro accademico, scientifico, abbiamo fatto anche una scelta con l'editrice di farlo uscire a un prezzo contenuto rispetto a quelli che sono i prezzi soliti dei libri accademici, soprattutto di un volume così ampio, perché sono 320 pagine, ma lo abbiamo pensato soprattutto in termini di scrittura e di contenuti, per cui è stato scritto con un occhio di riguardo al fatto che non fosse letto da esperti ed esperte solamente. E ci auguriamo che anche la varietà dei temi e delle prospettive siano uno stimolo e siano appassionanti anche per chi non è uno storico o una storica. Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più? Sulla pagina della editrice Viella ci sono i rimandi ai vari appuntamenti che sono in programma. Alla prossima! Grazie a voi, grazie. Laura Schettini, una delle curatrici del libro L'autodifesa delle donne, pratiche, diritto, immaginari nella storia. Una presentazione a Roma, alla quarta edizione della Festa dell'Arte a Monteverde, a Teatro Villa Panfili, domenica 1 giugno 2025 alle ore 11, con Laura Schettini, l'altra curatrice Simona Feci e due delle autrici, Leila Spignese e Alessandra Chiricosta. Marco Trasciani, curatore del libro Una resistenza popolare, storia di bandiera rossa a Roma, una presentazione a Roma, al Teatro Villa Panfili, nella quarta edizione della Festa dell'Arte a Monteverde, sabato 31 maggio 2025 alle ore 16.30 con Marco Trasciani, lo storico e critico letterario Raul Mordenti, lo storico Alfonso Perrotta, letture di Marco Salomone. Ben trovato. Grazie, buongiorno, grazie a voi. Cos'è questo lavoro? Questo è un lavoro di ricostruzione di una parte della Resistenza che viene spesso oscurata, trascurata, che invece ha pagato un tributo di sangue enorme. A Roma è un gruppo che ha avuto il maggior numero di caduti, praticamente quasi lo stesso numero fatto dalle tre grandi formazioni PSI, UP, PC e Partito d'Azione insieme. E soprattutto è importante perché è un moto spontaneo di popolo che reagisce alle condizioni di vita in cui era stato costretto dal regime aderendo al movimento antifascista. Era questa la cosa che volevo mettere in luce principalmente. Come nasce l'esigenza di questo volume? Dal fatto che le precedenti pubblicazioni erano una ormai abbastanza datata, quella pionieristica importantissima di Silverio Corvisieri del 1967, il cui valore non è in discussione, ma che era costruita con criteri che la rendevano attaccabile da un punto di vista della scientificità, perché priva di un corredo di fonti documentali, e scritta senza una nota. E poi c'era invece il lavoro di Gremmo, sul quale io invece dissento profondamente, soprattutto per quanto riguarda la ricostruzione della vicenda di Via Rasella, dove viene imputato ai GAP comunisti, hanno esplicitamente l'intento di colpire Bandiera Rossa, e mi sembra una costruzione obiettivamente fantasiosa. Quali erano le caratteristiche di questa formazione? Erano quelle di essere un soggetto costituito da operai, artigiani, fornaciari, cascherini, insomma, gente del popolo, radicata nella cintura periferica della città, che proprio per questo suo porsi come un soggetto che non calava dall'alto una verità, ma che era aperta a costruire esperienze insieme a questi soggetti di democrazia di base, di democrazia che loro chiamavano operaia, riuscì a incontrare un larghissimo consenso. Era un'idea di un'autoemancipazione di quei soggetti che entravano nella scena politica, come dicevo prima, partendo da una propria condizione esistenziale che veniva rifiutata e imputata principalmente al fascismo. C'è un episodio molto interessante che io ho scoperto spulciando tra le carte dell'archivio centrale dello Stato. C'è un rapporto di polizia firmato da Mussolini che già nel 1941 aveva visto l'arresto di alcuni muratori operai a Pietralata che protestavano contro la guerra fascista e imputavano la causa della fame che la popolazione stava vivendo al regime, e furono arrestati e mandati al confine, e saranno poi questi arrestati tra i protagonisti dell'azione partigiana a Pietralata di Bandiera Rossa. Qual era la consistenza di Bandiera Rossa e quali sono le azioni più importanti? La consistenza di Bandiera Rossa era certificata a più di 1000 combattenti tra partigiani e patrioti. C'è un'altra questione spinosa che smentisce la tesi di alcuni per cui tutto quello che Bandiera Rossa deposita poi alla Commissione per il riconoscimento delle qualifiche di partigiani sarebbe inventata, che invece in quella sede vengono respinte 1000 richieste di militanti di Bandiera Rossa, quindi siamo già a 2000. In più c'è tutta l'area di consenso attorno notevole ai militanti, a coloro i quali facevano le azioni e diffondevano il giornale, che fa pensare che stessimo ad una consistenza attorno alle 3.000 unità. Per quanto riguarda le azioni, sono molteplici, si tratta di una, e io questo anche cerco di fare nel mio libro, di una conflittualità diffusa nel territorio, che è fatta di gesti eclatanti, ma anche di attacco ai treni per entrare in possesso dei beni di prima necessità di cui la popolazione necessita, di imposizione ad alcuni fattori che foraggiano gli occupanti fornendo latte e carne fresca per invece distribuire ai popolani affamati questi beni. È per esempio il primo importante evento che poi caratterizza proprio la resistenza della città di Roma, in cui i nazisti compiono il primo accidio, è quello dell'ottobre del 1943, quando c'è questo attacco a Forte Pietralata, in cui i militanti di Bandiera Rossa guidano la popolazione del quartiere nell'ingresso al forte per appropriarsi di quello che era stato lasciato nel forte abbandonato, fossero queste armi o generi di prima necessità, sacchi di farina, e i tedeschi irrompono, c'è un conflitto a fuoco, vengono arrestate 21 persone e 11 vengono fucilate immediatamente e gettate in una fossa comune, sono tutti, escluso uno, militanti di Bandiera Rossa. E Bandiera Rossa poi farà questa cosa che forse un po' romantica, ma dà l'idea di quanto ci fosse l'idea di spingere la popolazione alla sollevazione, di lanciare i manifestini in tutti i cinema della città per denunciare quello che stava avvenendo nei sotterranei di Palazzo Braschi per opera della famosa banda Bardi Pollastrini, che erano due criminali fascisti che torturavano i prigionieri politici in modo efferrato, tanto efferrato che saranno le stesse autorità di occupazione a fermarli, gli stessi nazisti. Bene, per denunciare questo Bandiera Rossa lancia manifestini in tutti i cinema e purtroppo c'è una reazione repressiva considerevole e sarà celebrato nelle giornate di gennaio il primo importante processo contro la resistenza romana e saranno le stesse autorità tedesche che diranno che Bandiera Rossa è estremamente pericolosa perché sta organizzando la guerriglia dietro le linee del fronte di Cassino, e a testimonianza di questo emergerà un piano stilato da un militare che aveva aderito all'organizzazione per uno sbarco degli alleati in una zona diversa da dove effettivamente avverrà, sempre vicino ad Anzio, ma in una zona diversa che era frutto della mappatura del territorio che i militanti dell'organizzazione avevano fatto. E poi una delle cose importanti sarà la lotta alla fame. Quindi non soltanto quegli espropri di cui parlavo prima, ma poi anche il contrastare gli episodi di Borsanera, l'intervenire laddove essa avveniva. Ancora dopo la liberazione della città verranno fermati i militanti di Bandiera Rossa perché hanno ostacolato i borsari neri nella loro azione e si sono sostituiti alle autorità di polizia, requisendo spesso i carichi dei loro camion e distribuendoli alla popolazione affamata. Ecco, la differenza tra i GAP comunisti e Bandiera Rossa sta proprio in questo, che mentre i GAP comunisti e le altre organizzazioni della resistenza hanno questo obiettivo di colpire duramente l'occupante, di terrorizzarlo quasi con delle azioni molto efficaci, Bandiera Rossa si muove dentro quei territori in cui è radicata per costruire reti di sostegno alla popolazione, di welfare territoriale. Che ne fu dopo la liberazione? Purtroppo ci fu uno sbandamento dovuto al fatto che, essendo un modo spontaneo principalmente di popolo, con pochi intellettuali in grado di realizzare un'elaborazione politica compiuta che desse una prospettiva, l'organizzazione cominciò a soffrire e soprattutto subì l'azione anche disgregatrice del Partito Comunista, che era interessato a recuperare molti di questi militanti, li attaccava duramente pubblicamente sui giornali, uscirono articoli che accusavano questi sinistri di essere al soldo degli occupanti, di fare il gioco della reazione, una fraseologia che poi è ritornata nel tempo, io sono della generazione degli anni 70 e l'ho conosciuta in altri momenti, però d'altro canto il Partito Comunista aveva una struttura organizzativa possente, anche era guidato da soggetti che comunque avevano una linea politica chiara. È molto esplicativo un episodio che avvenne subito dopo la liberazione di Roma, un comizio che tenne Togliatti alla Cinema Brancaccio. Questi militanti dell'organizzazione di Bandiera Rossa si organizzarono per andare a questo comizio intenzionati a contestare Togliatti perché lo reputavano responsabile di questa politica nazionale e quindi di aver abbandonato una visione classista del processo resistenziale e della lotta antifascista. Ebbene, quando si trovarono a cospetto del leader comunista, furono impressionati dalle sue capacità oratorie e dalle sue argomentazioni, tant'è che uno di loro, Agostino Poce, che era un popolano di Ponte, un comunista della prima ora, però poi aveva aderito alla frazione bordighista, era stato espulso dal partito, scrisse un articolo per l'Unità intitolato «Ha convinto pure i carabinieri», per dire che si stava di fronte a una forza argomentativa che non era possibile reggere per quel tipo di organizzazione spontanea che Bandiera Rossa era ai tempi. Alla prossima, buona giornata. Marco Trasciani, curatore del libro Una resistenza popolare, storia di Bandiera Rossa a Roma. Una presentazione a Roma, al Teatro Villa Panfili, nella quarta edizione della Festa dell'Arte a Monteverde, sabato 31 maggio 2025 alle ore 16.30 con Marco Trasciani, lo storico e critico letterario Raul Mordenti, lo storico Alfonso Perrotta, letture di Marco Salomone. Bruno Fusciardi, uno dei due curatori del libro Ma noi non potevamo aspettare più, Memorie e storia della lotta per la casa a Roma, una presentazione alla quarta edizione della Festa dell'Arte a Monteverde, a Roma, al Teatro Villa Panfili, domenica 1 giugno 2025 alle ore 15, con Bruno Fusciardi, l'altra curatrice Giulia Zitelli Conti e con Loredana Mozzilli e Renato Fattorini. Ben trovato. Grazie, ciao a tutti. Ci presenti questo lavoro? Il lavoro che si è sviluppato in alcuni anni raccoglie le voci direttamente di una parte dei protagonisti della lotta per la casa a Roma a partire dal 1969 per tutti gli anni 70. L'interlocutore principale della prima parte del libro, che poi ha dato il titolo al libro stesso con una sua affermazione, è Renato Fattorini, il quale viveva a Borgata Gordiani in condizioni indegne, come descrive bene nel libro, e a un certo punto non potevamo aspettare più, bisognava abbandonare quel luogo malsano della Borgata Gordiani e andare a conquistarsi casa, diritto alla casa, e quindi a fare la prima occupazione che risale al 1963. Però poi le lotte che ha condotto insieme ai vari comitati di lotta, insieme a tanti compagni, si sono sviluppate soprattutto, come dicevo, a partire dal 69 e negli anni 70 ha avuto i momenti più eclatanti, e la prima parte del libro descrive proprio questa grande multiforme attività nella città di Roma. Come era nato il progetto? Molto semplicemente, dopo tanti anni ci siamo rincontrati con Renato Fattorini casualmente e gli ho proposto di raccontare un ventennio di lotte che aveva fatto per metterle a disposizione di chi oggi sta lottando in condizioni ovviamente sociali e politiche diverse, con la prospettiva di poterne fare un confronto e mettere a disposizione quell'esperienza. Renato Fattorini a 90 anni parteciperà sabato prossimo a Macchia Rossa alla Magliana all'incontro e, come sempre lucido, interverrà sicuramente, partecipa Luca Faggiano del Movimento per il Diritto all'Abitare, partecipa un docente della Sapienza, Bruno Bonomo, partecipa Tano D'Amico, ci saremo sia io che Giulia Zitelli Conti, la giovane storica che ha collaborato alla stesura del libro. Che mosaico viene fuori? È un mosaico molto interessante, perché far parlare direttamente le persone che hanno condotto quelle lotte è molto diverso dalla lettura di un libro di sociologia che ne parla dall'esterno, che pur raccogliendo tutte le informazioni dagli archivi, dai giornali e così via, non dà quella emozione, quel senso della vita diretta vissuta da questi protagonisti. Voglio sottolineare che la seconda parte del libro è centrata sulla lotta per la casa alla Magliana, e quindi uno dei protagonisti principali era Antonio Molinari, che purtroppo è deceduto proprio mentre facevamo il lavoro di stesura, per cui la parte relativa alla Magliana è stata completata dagli altri ex occupanti che hanno contribuito con la loro voce a completare quello che Antonio aveva cominciato a descrivere, e quindi questa seconda parte entra proprio profondamente in una specifica lotta di via Pescaglia 93, descrivendo dal primo giorno, la prima notte in cui si svolge l'occupazione, negli anni a seguire fino alla conquista delle case. Per completare, la terza parte del libro è il contributo storico di Giulia Zitelli Conte, che dà un quadro d'insieme della situazione sociopolitica e sociale, soprattutto a Roma dal dopoguerra in poi, facendo emergere bene la composizione sociale di quel periodo, cioè a Roma chi viveva nelle borgate, nei borghetti, erano immigrati però di un tipo diverso da quello attuale, non erano immigrati da paesi esteri, erano immigrati dall'Italia centro-meridionale, però le problematiche che avevano i comitati di lotta erano analoghi, perché le lingue che si parlavano, i dialetti erano molto diversi dal romano, per cui la difficoltà nella organizzazione delle lotte era analoga, per cui è interessante stabilire questo confronto oggi, perché molte situazioni ci appaiono analoghe, per cui quelle esperienze sono molto significative anche per l'oggi. Alla prossima! Spero di vederci intanto. Bruno Fusciardi, uno dei due curatori del libro Ma noi non potevamo aspettare più, Memorie e storia della lotta per la casa a Roma. Una presentazione alla quarta edizione della Festa dell'Arte a Monteverde, a Roma, al Teatro Villa Panfili, domenica 1 giugno 2025 alle ore 15, con Bruno Fusciardi, l'altra curatrice Giulia Zitelli Conti e con Loredana Mozzilli e Renato Fattorini. Con Antonio Bocchinfuso, uno dei tre curatori del libro Il loro grido è la mia voce, poesie da Gaza, una presentazione a Roma all'interno della quarta edizione della Festa dell'Arte a Monteverde al Teatro Villa Panfili, domenica 1 giugno 2025 alle ore 16. Ben trovato. Buongiorno, grazie a voi. Presentaci questo libro, cos'è? Questo libro che ho curato insieme ai miei due cari amici Mario Soldaini e Leonardo Tosti è una raccolta di una trentina di poesie palestinesi, di cui la maggior parte, 26, sono scritte da Gaza dopo l'8 ottobre. Quindi è una documentazione in versi dell'ultimo anno e mezzo di genocidio a Gaza, e gli autori e le autrici appunto hanno scritto questi testi in condizioni di estrema precarietà, quindi sotto i bombardamenti o in una delle tante fughe circolari che non portano a nulla e nelle quali non si scappa poi effettivamente da nulla, oppure da una tenda in un campo profughi bombardato. Insomma, questa è un po' una prima panoramica. Come ne siete venuti a conoscenza e come nasce questa raccolta? Questa raccolta nasce quando il 6 dicembre del 2023 l'esercito israeliano uccide con un raid mirato, che però distrugge il suo intero palazzo con tutte le persone al suo interno, un poeta. Quindi Refaat Harariya viene ucciso in quanto poeta, in quanto letterato, in quanto intellettuale di Gaza che si opponeva al genocidio, e quindi noi decidiamo di pubblicarlo. Poi, facendo qualche piccola ricerca, scopriamo come lui tanti scrivono a Gaza tuttora. Scopriamo una cosa che di primo acchito ci lascia molto sorpresi, anche se poi in realtà sorprendente non è, e cioè che a Gaza si scrive molto, si scrive tuttora, e la poesia, la scrittura svolge un ruolo fondamentale nella resistenza umana del popolo palestinese di Gaza. E quindi a quel punto cominciamo a raccogliere queste voci partendo da traduzioni in inglese e in francese, contattiamo i poeti e le poetesse e stabiliamo un rapporto che dura tuttora, direi in alcuni casi proprio un rapporto quasi di amicizia a distanza. Spieghiamo loro la nostra idea e loro stessi cominciano poi a mandarci dei testi attinenti a quello che era la nostra idea di raccolta, che quindi è stata costruita anche insieme a loro. Che panorama ne viene fuori? Viene fuori un panorama ovviamente tremendo, e non potrebbe che essere così. E più va avanti il genocidio a Gaza, più i versi si restringono, diventano sempre più secchi, taglienti, fanno male. Chi prima scriveva con una certa musicalità adesso non ha più il tempo di pensare alla rima, all'irismo, no? Il contrappunto. Per cui sono dei testi diretti che testimoniano una situazione inspiegabile. Cioè, c'è chi dice che può scrivere poesie con il sangue che sgorga, c'è chi parla di bambine che mangiano il pane impastato con il sangue dei propri cari che portavano quella farina sulla schiena, sono stati uccisi. Insomma, tutte queste suggestioni non sono narrativa, no, è effettivamente sangue vero, quella tenda bombardata, quelle macerie sono vere. E quindi appunto crediamo che questi testi siano portatori di un messaggio estremamente autentico, perché perfettamente autentica è la tragedia che cercano di scrivere. Ciò che sorprende però è che chi scrive nei momenti peggiori, quindi da Gaza e sotto i bombardamenti, raramente si riferisce ai nemici, raramente parla di Israele, Netanyahu o dell'Occidente complice. Il panorama che ne esce fuori è che chi scrive in quei momenti non può che parlare esclusivamente della propria sofferenza, della propria tragedia, di brandelli, dei propri cari raccolti in sacchi di farina. Questi sono gli argomenti, le immagini poetiche, se poetiche si possono definire, che vengono trattate in questi testi, per cui ne esce fuori un messaggio di profondissima umanità, che è appunto un'umanità lacerata, dilaniata, negata, ma che appunto in qualche modo attraverso la scrittura, per esempio, prova a resistere. Che impressione ha avuto su di voi la lettura di questi testi? Noi siamo stati un anno e mezzo a lavorare a questo libro, tenendo i contatti con gli autori, e tuttora siamo in contatto con loro e seguiamo cosa scrivono. L'impressione che ne abbiamo noi, che siamo tre ventenni, è di essere cresciuti tutto d'un colpo. In qualche modo c'è un verso di un nostro coetaneo, Al-Ghazali, che in una sua poesia scrive, una poesia molto realistica, quasi in prosa, scrive: ho sentito un boato, sono corso in strada e ho trovato la mano di una bambina poggiata sul marciapiede. E io lì ho capito che ero cresciuto. Ora, la nostra crescita non è stata violenta e tremenda come quella di Haydar Al-Ghazali, che firma questo verso, ma crediamo appunto di aver vissuto qualcosa di in qualche modo simile. Se prima pensavamo di poter tacere, di poter parlare da altro, oggi sentiamo che riportare queste voci per noi è come una sorta di vocazione che non possiamo, insomma, tacere o mettere da parte. Probabilmente loro scrivono anche per noi, loro scrivono anche per essere ascoltati da quel resto del mondo che li ignora e anzi li uccide. E in qualche modo ci sentiamo di essere un po' chiamati da loro a fare questa cosa, perché affidandoci alla loro poesia ci hanno affidato la loro vita. I palestinesi di Gaza non hanno più una casa, non hanno più un paese. E queste sono tutte cose che in qualche modo nella poesia, attraverso la scrittura, si ricompongono, si ricostruiscono, per cui davvero affidandoci i loro scritti ci hanno affidato forse quanto di più prezioso, di più stabile, di più resistente hanno. E questa è una cosa, se magari eravamo partiti con l'idea di fare una piccola pubblicazione di militanza, adesso sappiamo che non possiamo più assolutamente ignorare, ecco. Ci sono dei riferimenti internet per sapere anche il calendario di presentazioni? Sui nostri profili social personali, Antonio Bocchinfuso e Mario Soldaini, noi pubblichiamo di volta in volta le presentazioni, e anche sul profilo della casa editrice Fazio Editore, che ringraziamo perché ha scelto non solo di pagare i diritti d'autore che abbiamo devoluto ai palestinesi per trattarli da autori e autrici professionisti in qualche modo, ma soprattutto ha scelto di devolvere il ricavato, 5 euro per ogni copia, a Emergency per l'attività di assistenza sanitaria nella striscia. Il libro è uscito da poco e siamo stati anche noi colti un po' alla sprovvista dal fatto che ha destato molto molto entusiasmo, e quindi adesso stiamo girando un pochettino e con un po' di affanno, tra l'altro. Alla prossima! Grazie, grazie a voi, alla prossima, grazie. Antonio Bocchinfuso, uno dei tre curatori del libro Il loro grido è la mia voce, poesie da Gaza, una presentazione a Roma all'interno della quarta edizione della Festa dell'Arte a Monteverde al Teatro Villa Panfili domenica 1 giugno 2025 alle ore 16. Lo storico autodidatta Andrea Di Giorgi sulle visite guidate ai luoghi delle battaglie in difesa della Repubblica Romana all'interno della quarta edizione della Festa dell'Arte a Monteverde a Roma al Teatro Villa Panfili sabato 31 maggio e domenica 1 giugno 2025. Per info e prenotazioni l'email è scuderieteatrali@gmail.com, il telefono 06 58 14 176. Ben trovato. Buonasera a tutti. Partiamo dalla visita, come l'hai impostata? È una passeggiata e soprattutto è un racconto orale dove, soffermandoci sui vari luoghi dove cammineremo e ci fermeremo, racconteremo non solo il percorso, la vita breve della Repubblica Romana del 1849, ma tutto quello che è precedente ad essa come introduzione e quello che poi si svilupperà dopo la caduta della Repubblica Romana. È un percorso che si svolge su dei luoghi che oggi chiaramente sono dei luoghi bellissimi e di pace, ma che quell'estate, primavera estate del 1849, furono teatro di sanguinosi scontri per quello che poi è stato, a mio giudizio, la prima e vera, forse unica rivoluzione che c'è stata nel nostro territorio, quando ancora non era territorio nazionale, ovviamente riguardava solo lo Stato Pontificio. Quante sono le tappe? Il percorso lo possiamo racchiudere in un raggio di 2,5 km, 3. Si partirà da San Pietro in Montorio, che è di fronte allo stadio sacrario Gianni Colenze, e poi, se è possibile, entreremo anche dentro al sacrario, questo lo sapremo fra qualche giorno. E poi ci soffermeremo a Villa Spada, uno degli ultimi luoghi di resistenza, per poi procedere verso l'Arco di San Pancrazio, le mura Gianni Colenze, dove furono fatte le brecce, consentirono ai francesi di entrare dentro Roma, e parte finale, ma questo lo svilupperemo con le persone che saranno presenti, perché la visita io la sviluppo insieme alla partecipazione di chi segue il percorso, perché è una storia a 360 gradi, ricopre tanti aspetti dalla vita sociale, politica, militare, nonché anche urbanistica e paesaggistica, quindi dovremmo finire comunque all'Arco del Busirivici dentro Villa Panfili, per poi recarci al Teatro Villa Panfili. Qual è il più importante lascito o i lasciti della breve esperienza della Repubblica Romana? Per riallacciarci ai giorni nostri, credo che il lascito più importante sia la Costituzione, che i membri del governo e dell'Assemblea Costituente e del Triunvirato, insieme anche a una grande partecipazione popolare, quello che ci hanno lasciato è la Costituzione della Repubblica Romana, una Costituzione che tutt'oggi viene studiata ancora dai costituzionalisti e dalla quale prende spunto la nostra Costituzione. Su quali momenti e su quali personaggi ti focalizzi in genere durante le visite? Cerco innanzitutto di sfuggire a quella retorica che tutti abbiamo vissuto a scuola, risorgimentale, che purtroppo sembra ancora oggi difficile da lasciare da parte, per parlare soprattutto della partecipazione laica e democratica a questo grande cambiamento del nostro paese, e sui personaggi soprattutto che dopo l'esperienza della Repubblica Romana daranno vita, anche a volte inconsapevolmente, a nuove correnti di pensiero politico e sociale, come per esempio possiamo parlare di Carlo Pisacane e di altre persone forse anche sconosciute, ma lo stesso Goffredo Mameli è un grande rivoluzionario e non è solo l'autore del nostro inno patriottico, quindi ci saranno anche altri personaggi che teniamo a sorpresa, però questo è verso la fine della visita. Sei un autodidatta, su quali testi ti sei formato e a quali materiali fai riferimento per le tue visite? I testi principali per quanto riguarda questo periodo storico sono i testi che io almeno ritengo migliori dal mio punto di vista, sono o il racconto che viene fatto subito dopo l'esperienza storica, come che so, può essere il testo di Enrico Cernuschi che racconta l'esperienza della Repubblica Romana, o quello di Carlo Pisacane stesso, che vengono stampati intorno al 1851, se no per andare ai giorni nostri, i testi che vengono scritti negli anni 50 del 1900 sono i testi politicamente e socialmente più validi. A me questa è una mia lettura, per sapere più razionalmente e precisamente quello che è avvenuto, perché purtroppo questa è una parte storica che viene o completamente ignorata o troppo esaltata, almeno dal mio punto di vista, e dove soprattutto viene sempre lasciata in disparte quella che fu nel bene e nel male, come poi racconteremo, la partecipazione popolare. Ci sono dei riferimenti web per sapere di più? Mi sembra che ci sia un buon sito che si chiama proprio, credo, repubblicaromana.it, qualcosa del genere, dove ci sono buoni riferimenti. Diciamo che le ricerche più importanti su questo periodo sono quelle che vengono fatte nell'archivio di Stato, perché da lì si può risalire a quelli che sono i resoconti dei rapporti di polizia dello Stato Pontificio, da lì vediamo veramente quello che succedeva, quello che è successo. Da quegli interrogatori o dalle richieste dei prigionieri possiamo poi risalire un po' a una storia più veritiera e meno esaltata. Lo storico autodidatta Andrea Di Giorgi sulle visite guidate ai luoghi delle battaglie in difesa della Repubblica Romana all'interno della quarta edizione della Festa dell'Arte a Monteverde a Roma al Teatro Villa Panfili sabato 31 maggio e domenica 1 giugno 2025. Per info e prenotazioni l'email è scuderieteatrali@gmail.com, il telefono 06 58 14 176. la scienziata Raffaella Bullo sulla sua lezione Cineplastic, osservazione empirica cinematografica sulle microplastiche, all'interno della quarta edizione della Festa dell'Arte a Monteverde a Roma, al Teatro Villa Panfili, sabato 31 maggio 2025 alle ore 14. Ben trovata. Grazie Federico, buon pomeriggio. Come la presenteresti? Più che altro un frutto di una mia esperienza personale. Da quando mi occupo di plastica ho imparato a vederla, che non è poi così banale vederla. Tutti dicono che la plastica si vede, ma in realtà poi se la vai a vedere più approfonditamente, meno sulla superficie, sfugge tanta plastica. È apprendere l'osservazione empirica, quella necessaria per la scienza, per il metodo scientifico, attraverso il cinema. E andiamo a vedere le plastiche e la storia della plastica attraverso il cinema, la musica, la letteratura, e questo è come praticamente la plastica è fluito non solo nell'ambiente, che è tematica più o meno attuale oggi, ma impatti sociali e personali. È stato un materiale molto rivoluzionario che ha cambiato le sorti dell'umanità a metà dell'Ottocento. Che lavoro è stato di archivio tra immagini cinematografiche, musica e altro? È stato un'unione del mio lavoro, che è quello appunto di lavorare sulle plastiche attualmente e i loro impatti ambientali sul mare, direttamente, e poi un amore che mi porto da sempre del cinema e della musica. Mentre prima di occuparmi di plastica non guardavo bene il cinema, o almeno le immagini che raccontavano un sottotesto relativo alle plastiche, una volta che ho imparato anch'io stessa a vedere le plastiche, mi sono resa conto che il cinema racconta tantissima plastica. Quindi è stato riprendere piano piano nuovi pezzi di film, fare appunto il time code, vederli e rivederli, tagliarli, e poi farci una narrativa storica, ambientale e sociale da raccontare, farla vedere, insomma. Raccontiamo anche un po' il tuo lavoro sulle microplastiche. Sono quasi 4 anni che mi occupo di microplastiche e di scienza della cittadinanza. Questo ha comportato anche l'ottenimento di un dottorato di ricerca, e adesso spero di portare avanti tutto quello che ho fatto in questi 4 anni. Praticamente la possibilità, attraverso questo progetto che è Plastic Crime Scene Investigation, di portare le persone non scienziate, non accademiche, che non hanno nulla a che fare con la scienza, invece a interfacciarsi e diventare scienziati anch'essi dalle fasi di campionamento, di discussione dei dati. Ho inventato un prototipo che fosse accessibile a tutti per campionare le microplastiche a seconda della direttiva europea della strategia marina, quindi questi dati potranno essere integrati in quelli che sono i tavoli decisionali sulle microplastiche europee e nazionali. Abbiamo ottenuto un inaspettato interesse intorno al progetto e adesso sono in quella fase sintetica che comporterà a delle pubblicazioni scientifiche, e mi manca tantissimo l'interazione con le persone che vogliono partecipare, perché mi sono resa conto che l'interesse, l'entusiasmo e la voglia di essere collaborativi e integrati in queste ricerche è altissimo, e che quindi sta anche da parte del mondo accademico, degli scienziati, degli esperti, di cogliere l'occasione e farlo diventare un fattore politico e decisionale sul territorio nazionale e internazionale. Sono tante le ricerche sulle plastiche che hanno avuto, soprattutto le ricerche sui monitoraggi sulle spiagge, che hanno avuto un grandissimo impatto su convenzioni internazionali anche. Quindi quando la scienza si unisce alla cittadinanza è molto molto molto efficace e potente. Ci sono dei riferimenti web per ulteriori dettagli? C'è la pagina Facebook di Plastic Crime Scene Investigation, c'è un evento sempre su Facebook, e poi c'è la mia pagina personale su Instagram, che è aperta. Alla prossima! Grazie Federico, buon pomeriggio! La scienziata Raffaella Bullo sulla sua lezione Cineplastic, osservazione empirica cinematografica sulle microplastiche, all'interno della quarta edizione della Festa dell'Arte a Monteverde a Roma, al Teatro Villa Panfili, sabato 31 maggio 2025 alle ore 14. il momento dell'agenda della settimana per quanto riguarda gli appuntamenti teatrali con Simone Nebbia di Teatro e Critica. E buon pomeriggio ed eccoci giunti all'appuntamento per segnalarci tutto il teatro da vedere in questa settimana a Roma e dintorni. Dunque, io comincerei appunto da una rassegna, ce ne sono un po'. Questa settimana partiamo dal Teatro Le Maschere, è la rassegna Magnifiche Presenze che è già iniziata dal 14 maggio. Questa settimana prevede un testo scritto da Giuseppe Manfridi con Silvia Brogi e la regia di Claudio Boccacini. Il titolo è La Supplente, sarà in scena 28, 29 e 30 di maggio appunto al Teatro Le Maschere e si tratta di un monologo con delle musiche originali in scena in cui il pubblico assume il ruolo di una scolaresca di fronte a una supplente misteriosa e tormentata che deve tenere una lezione sui poeti risorgimentali e che fa emergere un po' di cose legate alla propria vita, alla propria intimità all'interno del proprio racconto. Quindi questo per quanto riguarda il Teatro Le Maschere, ma andiamo avanti a raccontarci un po' di altre cose. Allora, continua Festival, anzi Internazionale di Danza e Cultura Contemporanea Futuro Roma, nell'ambito, insomma, nella zona via del Teatro Brancaccio, nelle proprietà e dintorni del Teatro Brancaccio. Invito ad andare sul sito per il programma completo, che poi andrà avanti fino a giugno, mentre invece noi andiamo anche a vedere ciò che riguarda il programma del Festival Inventaria, che questa settimana si sposta al Teatro Trastevere. Ci sono tre giorni in scena con tre eventi in concorso. Il primo è quello scritto e diretto da Barbara Alesse con Ernesta Argira in scena e si tratta di Kitchen Stories, ovvero sia Tutto l'amore clandestino. Sarà il 27 di maggio, una commedia poetica e divertente sull'amore ai tempi della Bossi Fini, quindi va indietro un tantino per identificare appunto il tempo di questa legge terrificante che insomma sta alle nostre spalle e che forse anche solo citarla ci dà un po' i brividi, ma comunque lo spettacolo parla di una ricetta di cucina perché ai suoi protagonisti piace mangiare e tutto quello che poi sta attorno a questo discorso, anche con tutto il contenuto politico fra questure, prigioni, CIE, avvocati, e fughe dalla polizia, travestimenti, latitanze, tutto insomma con il filtro della cucina. Seguirà il 28 di maggio Matteo Vignati con Orsante, questo suo spettacolo appunto anche questo in concorso, un'odissea circense e fantasmagorica tra orsi, musici e la grande guerra. È un uomo misterioso che arriva davanti ai nostri occhi, profondamente turbato, scosso, parla una lingua difficile, un dialetto fatto di parole straniere, e alle sue spalle la veglia funebre della madre. Questo è il contesto in cui Matteo, Vignati ci racconta il suo Orsante. Chiude la settimana questo spettacolo, I fiori avranno tempo per me. Teatro del Crack è firmato e sarà il 29 maggio ed è una storia vera contro la violenza di genere sul coraggio di rinascere. Lo spettacolo è realizzato con la consulenza del Centro Antiviolenza Donne Non Sei Sola di Ortona e racconta la storia vera di una donna vittima di violenza che intraprende un difficile percorso di rinascita grazie al supporto del centro. Quindi, insomma, una storia che entra di diritto fra i nostri maggiori pensieri. Questo è quello che vedremo questa settimana al Teatro Trastevere per il Festival Inventaria. E noi andiamo ancora avanti perché fino al 1° giugno, ancora questa settimana, per andare a rintracciare nelle storie di mafia la nostra storia con Autoritratto di Davide Enia al Teatro India. E appunto ce ne occuperemo ancora questa settimana, ma l'avevamo già fatto la precedente. Io poi vado ancora a vedere al Comet Off questo spettacolo dal 27 di maggio fino probabilmente sì a mercoledì 4 giugno, questo Giochetti, la violenza silenziosa nella famiglia moderna. Il testo è di Beatrice Gattai, la regia di Riccardo D'Alessandro. Si tratta di appunto un lavoro a due voci in scena con Beatrice Gattai anche Marco Aceti. È un thriller psicologico che indaga le dinamiche relazionali disfunzionali all'interno della famiglia contemporanea. Questo appunto per questo spettacolo. E andiamo ancora avanti, perché al Teatro Spazio 18B c'è questo spettacolo un po' curioso, si chiama Immortali. Arianna Cozzi e Alessio Antelmi, lei anche scrittrice del testo, dal 29 maggio al 1 giugno, con questo lavoro che racconta di Ivi e Francesco, che esistono nella loro casa di Roma e vi risiedono da quasi 50 anni. Ivi è una ragazza gaelica nata nel 1032 d.C. con una particolarità: essere immortale. Incontra Francesco a Firenze nel 1348, si innamora di lui e gli dona la vita eterna. Questo, insomma, nel 700° compleanno di Francesco si svolge lo spettacolo, è originale, devo dire, un po' particolare. Ancora, perché al Teatro Anfitrione, 30 maggio, 1 giugno, Enrico IV con Mino Sferra, è un testo, insomma, che entra all'interno della storia antica, in costume ambientato ai primi del Novecento, un nobile che decide di indossare i panni dell'imperatore Enrico IV e per sfilare assieme alla sua amata Matilde Spine al suo rivale, il barone Belcredi. Ovviamente in più svegli di noi hanno riconosciuto il capolavoro pirandelliano Enrico IV, insomma, che si trasforma in questa commedia ironica e comunque attuale, in bilico tra verità e finzione. 30 maggio, 1 giugno, Mino Sferra, Enrico IV, Teatro Anfitrione. Al Teatro Parioli debutta dal 28 maggio al 1 giugno lo spettacolo Buio, scritto e diretto da Filippo Gentile con Ernesto Lama e altri attori. Cosa resta di noi quando i ricordi iniziano a svanire? Mario, un uomo che ha vissuto nell'ombra dell'egocentrismo, si ritrova a fare i conti con la perdita della memoria. Questo è lo spettacolo che vedremo al Teatro Parioli questa settimana, ovvero sia Buio. E poi ancora da segnalare abbiamo che venerdì 30 maggio a Roma, via di Torpignattara, presso Blu Spazio delle Arti, c'è questo dialogo tra vento ed erba, una partita a tre per voce sola, il vento, l'erba e il narrare, inciso su una vecchia cassetta. A scriverlo e interpretarlo una nostra conoscenza, dire il vero, è da Gaber, che qui ritrae, declina e coniuga all'amore e a diverse letture. Quindi in scena il 30 maggio questo dialogo tra vento ed erba, ovvero amore al cardiopalma, di Edda Gaber, così appunto è firmato. E andiamo a vedere anche che il 30 di maggio continua in Roma Borgata Festival con un appuntamento abbastanza intrigante, ovvero sia Il sogno di una cosa, liberamente tratto dal capolavoro di Pierpaolo Pasolini. Elio Germano e Teo Teardo alla musica lo porteranno in scena a Villa De Santis, all'interno del parco di Villa De Santis. Quindi Roma Borgata Festival e su internet per andare a vedere il programma un pochino più preciso. Ma noi andiamo in ancora un paio di posti. 29, 30 e 31 maggio alla Fortezza Est, l'ultimo spettacolo di stagione. Calergi, il complotto dei complotti. Uno sguardo sulla società odierna attraverso la lente del fenomeno complottista. La regia e di Adele Di Bella, uno spettacolo che ha richiamato molta attenzione durante la stagione scorsa. Narra la vicenda di una compagnia teatrale che lavora sotto copertura per il governo nazionale, che con la scusa di produrre spettacoli impegnati sul sociale mette in atto il cosiddetto piano Calergi, un vero e proprio piano di sostituzione etnica che prende il nome dal conte Richard Nikolaus di Coudenhove Calergi, europeista ante litteram, che teorizzò l'ideale di un'Europa unita. Ma unita come? Ecco, questo effettivamente è tutto da capire. Lo andremo a vedere 29, 30, 31 maggio alla Fortezza Est. E io vado anche in altri due posti, ovvero sia nel Blu, il nome della rassegna, Orizzonti della danza contemporanea, curati da Chiara Marianitti dal 26 al 30 di maggio, quindi da oggi. Sono vari appuntamenti con varie coreografie. Io invito, insomma, Natalia Vallebona, Chiara Mameli, Enrico Frisoni, Vittoria Canella, insomma ci sono un bel po' di Simona Lobè, Faro Lorenzo Gianzante, Beatrice D'Amedio, insomma, sul sito del Teatro Basilica per il programma più completo di questa rassegna di danza Orizzonti della danza contemporanea nel Blu, da oggi fino al 30 di maggio. E l'ultimo degli spettacoli della settimana, sarà in scena al Teatro Argentina. L'ha scritto Ingmar Bergman, si chiama Sara Banda, in scena lo porta Roberto Andò. Dal 27 maggio al 1 di giugno in scena attori importanti come Renato Carpentieri, Alvia Reale, Elia Shilton, ed è tratto appunto dal film Testamento di Bergman, girato nel 2003 con una telecamera digitale, affidandolo a due attori simbolo della sua filmografia come Erland Josephson e Liv Ullmann. 10 scene in cui si avvicendano due dei quattro personaggi che ne compongono il disegno, una struttura musicale che allude alla sarabanda, una danza per coppie solenne e lasciva che venne proibita nella Spagna del XVI secolo e poi ripresa da Bach e Handel. Sono i protagonisti di scene da un matrimonio diventati 30 anni dopo più maturi ma anche più spietati, e l'ultimo confronto in presenza di un figlio e di una nipote evidenzia le sfumature delle relazioni umane e familiari, e con tutti i rimpianti, i rimorsi, i rancori che ci sono dietro. 27 maggio, 1 giugno per Sara Banda di Ingmar Bergman con la regia di Roberto Andò, appunto al Teatro Argentina. E direi che con questo abbiamo concluso e buon pomeriggio, buon teatro a tutte e tutti. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.